del numero dei morti della Prima Guerra Mondiale, Belgio e sue colonie, militari 58.637, civili 62.000, Francia e sue colonie, 1.397.800, civili 300.000, Giappone 415, Grecia 26.000, civili 150.000, Italia 651.000, civili 589.000, Montenegro 13.325, Portogallo e sue colonie 7.022, civili 82.000, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 886.939, civili 109.000, Australia 61.966, Canada 64.976, civili 2.000, India Britannica 74.187, Nuova Zelanda 18.055, Sudafrica 9.477, Terranova 1.570, Regno Unito e suoi Dominion 1.117.167, Gran Bretagna 11.000, Romania 18.000, civili 430.000, Impero Russo 10.000, tra 1.111.000 e 2.250.000, Francia 8.500.000, Milione di Serbia 369.800, feriti 4.266.000, Italia 5.655.000, caduti 650.000, feriti 947.000, civili 467.000, Bulgaria 4.350.000, civili 100.000, Germania e sue colonie, feriti 0.50.297, civili Romania 124.150, Inghilterra 8.000, morti. Avevano dimenticato di prevederli e poi di tenerne il conto, il nome, nome e cognome, quanti. Poi, a chi è toccato glorificare croci bianche, croci nere, statue di madri piangenti. Morti, non caduti. Perché scoppiò quella guerra per due colpi sparati a due sovrani distratti? La primavera del 1914 era bellissima, esplodeva di forza e di vitalità. Tutto il mondo voleva cambiare, spaccarsi, progredire, avanzavano le masse, le donne volevano il voto nell'agosto, poi le notti non finivano mai. Libertà, libertà, socialismo. Pare davvero che ci sarà la guerra. E allora, come mi ha consigliato Nicola, io terrò un diario. Non l'ho mai fatto. Un diario dove registrare i miei pensieri in quest'ora importante della nostra storia. Parlano di una guerra lampo, ma io non so se essere a favore o contro. Certo, dobbiamo riprenderci le nostre terre, ma tutto il resto, il giardino della nostra villa a Monza fiorisce con una violenza che inquieta. E Nicola deve smetterla di baciarmi negli angoli, anche se siamo sposati. E se ci vedesse la Fiori mentre fa le stanze o i bambini? Di solito non fa così, quasi non lo riconosco. Mi legge ad alta voce le poesie dei futuristi. Ascolta, mi dice, lui così tranquillo. Firmato Eurilla Bollani, signora in Monza, nella prima pagina del suo diario. I futuristi. Yeah! Grazie. Dall'Italia noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente, incendiaria, col quale fondiamo il futurismo, perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori archeologi, ciceroni, antiquari, mercato di rigattieri, musei come cimiteri. Noi vogliamo cantare la velocità, il coraggio, l'audacia, la ribellione. La letteratura è saltata finora l'immobilità pensosa, il sonno. Noi invece vogliamo esaltare lo schiaffo, il pugno. Basta col femminismo, basta! Noi cantiamo le grandi masse, il piacere delle grandi masse. Ecco, come giovani leoni inseguiamo la morte del pelame nero maculato di pallide croci che corre, corre per il vostro cielo violaceo. La morte addomesticata mi porge la sua zampa, sguardi vellutati. Usciamo dalla saggezza come da un orribile guscio firmato Filippo Marinetti. Pazzi, pazzi, pazzi, ascoltate noi. Siamo le donne di 26 paesi. Vi invitiamo alla riflessione. Questa guerra porterà soltanto dolore, soltanto riflessione. Ascoltate noi. Non ascoltatele, non ascoltatele. Soltanto la guerra come estremo rimedio. Soltanto l'esercito come unico freno. Il rimedio, l'idea di patria. La nazione si fonde, si unisce. Firmato Giovanni Boine, contro la cancrena della lotta di classe. No, noi non vogliamo tacere, anche se non abbiamo il potere, siamo ancora noi le donne. Noi non possiamo votare, ma assumiamo la responsabilità in pieno del futuro ruolo di madri. Di madre dell'umanità. Il conflitto lascerà a questa umanità più povera, rallenterà il miglioramento delle condizioni delle grandi masse. Aiuto, aiuto, aiuto. Non lasciate niente, niente di intentato per impedire l'annegamento nel sangue di metà del mondo civilizzato. Firmato il Movimento Politico delle Donne, luglio 1914. In quella primavera del 1914, in quel maggio radioso del 1915, nel quale con passo deciso l'Italia entrò in guerra, in questa guerra che nessuno pareva volere. Uomini, donne marciavano verso i treni che andavano al fronte col capo pieno di fiori, ebri di vino, come se andassero a una festa. Si abbracciavano stretti intorno alla speranza della vittoria. Gente che non si salutava da anni si abbracciava e si perdevano i confini dell'individuo per diventare popolo. C'era un nemico, finalmente. Siamo entrati in guerra, dice Nicola. Sono passati sotto il mio balcone cantando. Io ho lanciato petali di rosa. Qualcuno piangeva. Che cosa succede nella nostra bella terra di campagna, tra il fiume e la strada? Il fiume Natisone, che tanto amo, perché mettono le fondamenta per costruire il capannone? Perché ammassano cavalli e cannoni? Che cos'è questa guerra? La terra si deve coltivare. Firmato Emma Beltrame, contadina friulana, nelle valli del Natisone. Ecco, si spengono ad una le luci scintillanti, i globi bianchi di quel tempo soave che fu la Belle Époque, tollerante, festosa, i suoi abiti eleganti, i ristoranti raffinati, teatro, arte e musica, la speranza di un'Europa felice e gioiosa. L'Europa è addormentata ora, l'Europa non è mai rinata, mai più risvegliata. E zantum tum, zantum tum, la guerra è la sola igiene del mondo. Guerra, guerra, guerra, pace, pace, pace, pace. Le masse hanno bisogno della guerra, le masse hanno bisogno della pace. Le donne devono combattere, no, le donne devono curare. Basta con i femminismi, basta con... Povera Europa, confusa e disorientata. Doveva essere una guerra lampo che avrebbe dovuto risolvere la disgregazione degli imperi centrali sfaldati e durò invece anni, anni. Se tu sapessi, amico mio, dopo tanta strada sono arrivato in mezzo delle catene dei monti, in mezzo ai sassi, dove c'è una terra rossa che non ci cresce neanche l'erba cortellina. E io qui so che morirò e non so neanche perché patria, che nome ho. Su, soldate, avanti Savoia, avanti col petto contro il nemico! E cominciò una di quelle guerre che non si erano mai viste, la guerra moderna. Una corazzata in meno di 10 minuti va a fondo con tutto il suo equipaggio di 800 persone. Un combattimento di artiglieria dove 104 cavalli su 107 vengono abbattuti. Un assalto nel quale tutti gli assedianti vengono ammazzati e nessuno si rialza. 115 mine esplodono, è una catastrofe cosmica e il nemico non si vede mai, si sente soltanto il rumore delle munizioni, dei cannoni, degli aerei, la morte viene dappertutto, oppure il silenzio assassino del gas. Crani sfracellati, petti sconquassati, mandibole strappate, cervelli esplosi che colano sulle guance dei soldati ancora vivi. Dov'è? Chi è vivo? Chi è morto nella neve? È il nemico, è la guerra, è un terremoto, è un cataclisma. Non è la guerra degli umani, è la guerra di un dio. È la guerra di una dea, di una cattiva dea. Si apre una ferita lungo l'Europa. Una ferita che è uno scavo, è una trincea. È aperta da uomini con tubi di esplosivo, gelatina, è fasciata dai falegnami con cura, è murata dai muratori romagnoli. Una spaccatura costruita da uomini piena di uomini, e gli uomini sono pieni di pidocchi. E in mezzo agli uomini pieni di pidocchi ci sono i topi che scavano insieme agli uomini nelle viscere della terra che esplode tra una terra di nessuno e un'altra trincea. E di notte è la guerra medievale con le mazze e i pugnali, ma anche lì nel buio il volto del nemico tu non lo vedi mai e non devono rimanere feriti mai feriti. Per favore, qui c'è da impazzire tra un attacco e l'altro, ad aspettare tenendo di mira il nemico invisibile là in fondo. Mandateci dei grammofoni perché almeno noi si possa sentire la musica di Verdi. Tra un attacco e l'altro di quelle mine che per noi hanno anch'essi il suono di animali pettirossi, c'è quella che ha il suono della civetta, quella del gatto. Sembra di non avere più nome, allora scriviamo lettere, lettere, nome e cognome, perché non si dimentichi che siamo esistiti, che qualcuno ci ha generati, qualcuno ci aspetta. Forse quando arriva il postino tutti intorno andiamo come in un frullo di passeri, e se a qualcuno non è arrivata posta si ritira come una bestia vergognosa. La musica di Verdi ci consola nell'attesa, mentre un morto attaccato al reticolato nessuno lo può prendere. Un cavallo esplode in aria come un fiore insanguinato. La musica va e li fa levare i morti da terra uno a uno. si svegliano, chi con la sigaretta in bocca ancora, chi è colto nell'atto di lanciare una granata, chi in quello di scambiare una chiacchiera coi compagni, chi è incastrato a terra col sorriso bianco sul volto annerito, e niente è quello che sembra. Quella zolla è una spalla, quel ramo è un braccio. E chiedono: è servito qualcosa? Qualcuno ha annotato? Nome, cognome, avete letto? Non possono tornare a dormire, troppo tempo che stavano con le mani alzate in un spasimo verso il cielo. Il mio nome lo ricordate? Chi l'avrebbe mai detto, Teresa mia, che sarei diventato uno scrittore io che ero analfabeta? Non sapevo prendere la penna in mano, adesso cerco carta dappertutto. Scrivo sulle cortecce, sulle bende, sul legno delle travi. Prima non ci capivamo nemmeno, moglie. E adesso piano piano parliamo una lingua mescolata di calabrese, siciliano, piemontese, romagnolo. Sentiamo anche l'austrico, il serbo, il montenegrino. So scrivere e so parlare mille lingue, che è l'italiano. Ci vorrebbe un mese, un filosofo, un giornalista per raccontare tutto questo. Dovrei scrivere non con la penna, ma col cuore. Scusa questa brutta calligrafia. Sono sospeso lì nella trincea tra due sassoni come due scogli e non mi posso appoggiare da nessuna parte. Io invece, mamma, sono allegro, mi faccio coraggio e prego il Signore Gesù che non mi faccia star peggio. Ho perso un occhio, ho perso una gamba, ma non importa. Io non ho paura della paura, se fossi solo tanta. Ma siamo in tanti, cantiamo sempre, non pensiamo a niente. Le altre cose che faccio, mamma, non le scrivo, perché le lettere le legge gli ufficiali. E qualcosa quando non va, li spacca. Come facevamo a non applicare la censura? Con tutto quello che la patria faceva per loro, non potevano deprimere i cittadini a casa. Li dividevamo perfino quando venivano dai paesi, perché se li prendeva una mina non arrivassero tanti telegrammi tutti insieme, gli stati a lutto. Un mormorio di uomini, donne, bambini si levano i morti e ti dicono: lo sai tu che cosa vuol dire camminare nel nebbione, svenire con la faccia nelle viscere di un uomo, avere i piedi congelati sempre nel freddo? Tu sai cosa vuol dire? No, tu non lo sai, allora perché parli? È per questo che abbiamo scritto. Avete letto i diari e le lettere? Li avete letti? Per questo noi li abbiamo scritti. Lì, lì, lì. Tu che parli, io mica lo so. È per questo che i reduci di guerra volevano sempre parlare della guerra e solo della guerra. Pensavano di trovare tanti giovani, ragazzi e ragazze, che volevano sentire. E invece... L'hai già detto. Vabbè, ma lo ripeto. È difficile da spiegare in una volta sola. Nessuno li vuole ascoltare, tant'è che a volte pensano di avere sognato. E allora per questo si riraccontano le cose tra di loro. A una prendono nota delle date, delle pensioni. Spolverano le medaglie, le bandiere, le targhe, loro che a casa non vogliono fare niente. Si trovano in tante piccole stanze, in tutta Italia, in tutta Europa. Vedi, mi dice il mio amico delle valli del Natisone, guarda quel paese lassù, disabitato, su dal Donchia. Si chiama San Volfango. Vedi quel bar, vedi la scuola, libertà e sapere. Vedi quei rampicanti, che quelli non vogliono morire. Non ci sta più nessuno, è tutto vuoto. In quel bar si trovavano i reduci. Dopo essere stati ogni giorno, anche nella luce del maggio, a pestare il buio delle loro trincee, dicevano alla bimba che gli portava il bicchiere di vino pieno fino all'orlo: vuoi sentire, bimba? Sai che io sono stato... No, no, no. La stessa cosa quelli nella torre dell'orologio del mio paese. Provavano ad andare nel bar di fronte, ma gli ridevano dietro. Era l'iniziazione del guerriero, non si deve raccontare. La viltà, la crudeltà e l'assassinio. Ve le abbiamo date le medaglie alle croce rossine, le sete turchine. Quando si torna zitti, è ora di dimenticare. Non si può sopportare, ma la guerra è la cicatrice che sempre sanguina ed è i ricordi che i reduci vogliono sempre andare. Anche senza parlare. Italia bella, il tricolore vincerà. Squillino ovunque sempre le trombe. Via, le terre saranno di nuovo nostre. Spara. Sta venendo fuori l'austriaco dalla baracca, spara. Non guardare se ha le pantofole azzurre, se ha la fascia con scritto sanité. Nemico, conquistatore, invasore, spaccagli la faccia. Avevamo una gran voglia noi di usare la baionetta. Guarda, mi sono fatta una cicatrice qua, guardala, la vedi? Venivamo comandati, non si poteva tirarsi indietro, ma noi dovevamo andare al generale austriaco che di notte ci veniva a trucidare nelle trincee, nei fossi. Bisognava ammazzare il nemico, no? Perché spegni il registratore? Registralo, scrivilo! Io, soldato Stradelli, non ho paura. Guardami, ho un berretto tutto di ferro, son pieno di peoci, ho la baionetta, sono infangato fino agli occhi e salto su. Ce n'era uno biondo, sai, che pensava di essere prediletto dalla fortuna e che con le mani spostava la traiettoria delle pallottole. Ho benedetto con l'acqua del fiume tutti i miei soldati. Ora termino di scrivere. Voglio andare a spiare se c'è qualche zuccone che viene fuori dal fosso della trincea. Allora gli sparerò addosso. Voglio vederlo cadere a terra. E fra di me tengo una cosa che non dimenticherò mai più. Ce n'era uno di cui non ricordo il nome, amore mio, ma l'ho visto tante volte. Ci siamo scambiati dei sorrisi, delle pacche sulle spalle. Quando era ora di avanzare, lui non ce l'ha fatta e gli è venuto di scappare. E allora l'hanno messo seduto su una pietra e noi col fucile puntato. Non potevamo non sparare perché dietro di noi c'era la mitragliatrice. Che brutto. Lì mi sono sentito assassino. E a 34 anni come se fossi morto. Io invece ho imparato a tirare la sipe, che è una mina molto pronta. La sfreghi così e poi... La signorina invece ha un manico con una bella gonnellina e un'elichetta in testa. Togli la sicura e se sei bravo devi contare fino all'ultimo, non solo 6-7, fino a 12. E poi lo lanci, esplode qualche cretino imbecille, invece di tirarla in avanti la tira in alto e gli ricade in testa e muore, come tutti gli aerei, che sono più quelli che vengono giù tentando di volare che quelli che vengono giù in battaglia. Scappa, dice la voce dentro. Scappa. Io non voglio essere il quarto a morire in quella rada. Scappa in una caverna, scappa dentro un fosso, scappa dietro un albero, scappa, che la vita è importante, che te la restituisce. A uno gli è arrivato una mina tutta qui sugli attributi. Che cosa gli racconta la sua bella quando torna a casa? Scappa! Matilde, te lo racconto. Sono arrivati l'altro giorno i nuovi da Reggio Emilia e ce n'era uno giovane, tutto gambe e occhi. Eravamo così vicini ai nemici che sentivamo la loro voce e ci dicevano di passare dalla loro parte, che si stava meglio, che i nostri comandanti non sono capaci e ci mandano al macello. E allora lui è saltato fuori dal fosso e ha cominciato a dirgli che lui dalla loro parte non ci passava, che il nostro è un popolo di eroi che lotta per la sua libertà. Discuteva e l'hanno preso con un colpo in mezzo alla fronte. Tappum. Io invece ho visto la morte. Non mi vogliono credere, ma è vero, giuro. Stavo lì a tenere di mira la terra di nessuno non so da quante ore. Quando vedo di là da lontano il nemico che tira su un reticolato che sembrava pieno di spine. Non erano spine, erano i corpi dei nostri. secchi dell'anno prima, che non li possiamo tirare via, non possiamo andare di là e seppellirli. E le madri ancora domandano cosa vuol dire dispersi, che si può sperare. E mentre guardavo, ho accarezzato il mio cane, quello che più avanti mi ha salvato la vita, che la bomba è arrivata addosso a lui e non a me. E l'ho vista. Cos'è, una croce rossina? Ehi! Ma no, è troppo alta. È alta 4, 5 metri. Sembra che abbia sentito la mia voce, allora si ferma. Con un braccio così e l'altro più indietro. E anche le gambe. E gira il volto. E allora io la posso vedere. È il volto per metà scarnificato e per metà di bronzo. E quel corpo è nudo, è muscoloso, è forte. Mi guarda fisso. Poi prende in una bracciata tutti i cadaveri dei miei amici. Alza il viso come in una risata. Se ne va con il mantello al vento. Lo so, moglie mia, che non riconoscerai la mia voce in questa lettera che io non so scrivere, e allora me la faccio scrivere da uno di Firenze. Ho fatto un viaggio lungo, lungo, non so dove sono arrivato, non ne ho idea. Mi sento tutto sparguigliato. Ho provato a salire in alto sul monte per vedere se vedevo la cima della nostra Etna, ma niente. Sento parlare delle lingue che non conosco, si mangia roba che non credevo neanche che esistesse. E tu ti fai trovare addormentata quando arriva il soldato con la licenza a casa. Ma come hai fatto, moglie mia adorata? Che lo sai che Cadorna i siciliani non li vuol mandare a casa perché dice che poi non tornano più e se ne vanno su, scappano per i monti. E certo, perché non lo capiamo, perché si deve mandare la terra in malore anche le bestie. E poi stai attenta, mettili bene i bolli, perché sennò poi io ci pago le tasse. Ma se sono notizie tue, a me non mi importa, sono contento di pagare. Sai, moglie, io ho sognato che mi prendeva per la gamba nostro figlio piccolo, Tilio, e mi diceva: babbo, babbo, prendimi in braccio. Ma lo sai che io ho cominciato a contare, so contare fino a tre. Allora l'ho preso su e sentivo il suo calore come se fosse vero, l'ho stretto forte, lui: babbo, babbo, mi fa male, mi fai male. Mi sono sentito graffiare ed era il gatto, uno di quei gatti magri che stanno qui in trincea, che prima o poi finirà mangiato. Moglie mia, Matteo, Matteo, spero tanto di rivederti. Scusami, scusami se ho sbagliato i bolli, scusami se mi sono addormentata. Tu però spediscimi un'altra fotografia, che quando è arrivata mi sembrava di averti lì, talmente lì che l'ho tutta sbiadita, forza di lacrime, baci, baci e lacrime. E ti voglio dire anche, ogni tanto, di mandarmi una lettera scritta da te, anche se non sai scrivere, non importa, che le croci siano tue, segnate dalla mano tua che tanto amo, e non da una mano bastarda che non conosco, firmato Maria Consoli, da Santa Venerina, Sicilia. Noi donne siamo rimaste da sole a casa, sono rimasti solo quelli in età, quelli che hanno gli stabilimenti. Ma i parassiti nei campi ci sono, ma qua bisogna farli andare alle fabbriche. E allora si sono accontentati e abbiamo cominciato a lavorare noi, e si è aperta una via tutta nuova. Usciamo di casa, abbiamo dei soldi, a volte andiamo al bar a bere, a fumare. A volte a forza di fare le munizioni ci viene la pelle un po' giallina. Ma come sei carina, chi sei? Una canarina. Ed è il veleno che pian piano ci farà morire. Bisognava anche che qualcuno li pulisse i cammini, no? E che qualcuno guidasse gli autobus. Guidiamo gli autobus, facciamo i pompieri, sempre sotto la guida di un uomo, perché del voto poi non se ne parla, ci sono cose più gravi. Ma lavoriamo, e come se lavoriamo. Attenti, attenti, le donne guidano gli autobus, attenti, sono come i bambini, specialmente quelli che i bambini non li hanno ancora avuti, capricciose, vogliono scioperare, sono criticone, lamentone, hanno sempre ragione loro. Firmato, ma chi lo sa. Altre stanno partendo per fare le croce rossine, caro diario, ma io non ne avrò mai il coraggio. Come siamo diversi io e Alessandra, mia sorella, lei è partita. E anche lei dice: tieni un diario, le serve a capire. Quanti diari? Diario mio, non posso raccontare a Aurilla quello che sto provando qui. Sono partita per curare, bendare, visto che ormai c'eravamo in questa mattanza. Ma non ne posso più di vedere croste, pus e dolore. Mi prendo una rabbia, si ribella tutta la mia giovinezza. Le parole di patria e onore sembrano soldini di rame di poco valore. Ho imparato che quelli che stanno per morire spesso chiedono l'uva o una sigaretta. Ho imparato anche, oltre a non far differenza tra i nemici e i nostri, che tutti sono lasciati soli come cani quando stanno male, ho imparato a sorridere sempre e a non distogliere lo sguardo mai dagli occhi di quelli che hanno la mandibola strappata, le gambe tagliate. Sempre guardarli in faccia sorridendo anche quelli più sfregiati e dire: come andiamo oggi, come andiamo? Caro diario, qui a Monza ho visto passare la guerra da sotto il balcone, dicevano una guerra lampo, ma stanno chiamando quelli da 16 a 50 anni. Bardolini è morto e anche altri ragazzi che venivano alle feste. Chissà se se ne sono resi conto loro che sono partiti così festosi e con quel sorriso. Io vado a Milano e mi informo di tutti, non lo dico a Nicola. Vado a sentire dove scioperano dalle operaie del cappellificio. Sono diventata simpatizzante e della guerra ho paura e rabbia. Anche se mi è passata vicino così poco, mi è bastato un bombardamento, ho preso in braccio il piccolo, urlava, urlava e ancora non gli è passata e forse non gli passerà mai più. Alessandra è brava, è andata a fare la croce rossina. Le decorazioni al valore però ne ha date a due che sono rimaste a casa. Alessandra pare che si sposi con un sardo, un dottore, non sembra contenta. Quando torni io le chiedo, lei dice... Non c'è niente da dire, sai, senza vedere. Sempre la tua Eurilla, caro diario. Come racconterò quello che ho visto, come lo potrò raccontare, non so. Io poeta, poeta che non sapevo di essere poeta. Ho cominciato in quel giorno, era il 15 dicembre del 1915. O era... io non ricordo. Per questo io là, nelle montagne del Carso, ho cominciato ad annotare le prime parole del mio porto sepolto, che era per me il canto sommerso d'amore di un'intera città, un intero popolo. Io là, nel gelo, col nemico sopra di noi, molto meglio armato di noi, io sprofondato nel fango, dovevo dare ordine ai pensieri nella mia mente che se ne stavano andando via per quella follia, dovevo dare pace al mio cuore, ma non ho mai pensato a un pubblico, ci mancherebbe altro. Scrivevo in ogni angolo delle cartoline di franchigia, nei bordi delle lettere che mi arrivavano tanto amate, mettevo tutto nel tascapane e ci dormivo sopra come se fosse un'ancora contro l'orrore, per non perdere il cervello nella follia. E quando ho incontrato quel tenentino, lui mi ha chiesto che cosa fossero quei fogli e gliel'ho detto, mi ha detto di darglieli. Non voglio distinguermi io da nessuno. Io, se mi sono arruolato in questa guerra, è stato per il popolo, è stato per scomparire nel bene delle masse. Mi vergognerei se volessi distinguermi, per vanità, per favore. Non ti preoccupare, ha detto lui. E poi è tornato lui con le bozze del libro. Forse sono poeta perché mi si è infilata una lucciola tra i capelli. Forse sono poeta perché mi piace salvare una gazza mezzo asfissiata nel buio della trincea che ora mi guarda con occhi mesti se me ne vado e lieti se io ritorno mi scacazza tutta la divisa ed è meglio di tanti, tanti umani, io compreso. Un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. In quella solitudine non avrei mai pensato di diventare famoso. Poeta, la racconti te la storia della Mariella? No, la storia della Mariella, se permettete, la racconto io, perché era come se fosse mia figlia. Sua mamma era bella come lei, forse anche di più, forse in un altro modo era matta, alta, scura di pelle, ma i capelli uguali uguali, come grappoli di uva neri. Se ne andò, me la lasciò, ero vecchia e figli non ne avevo. Maledetti quelli che hanno cominciato a farli complimenti che avvelenano l'anima. Che bella bocca, che bei capelli, che bella pelle, Mariella. Era vero. E forse sarebbe finita lo stesso in quel modo, perché lei ce l'aveva dentro la febbre della vita. Vivere, vivere, vivere ogni momento pieno, pieno, più pieno che si può. E poi erano anche quei tempi. La vita spariva, scappava via tra le dita in un attimo. Bisognava avere fretta. Ma il primo ufficiale io l'avrei ammazzato se avessi potuto. Non l'ha mai fatto per soldi la Mariella, sai? No, no, era per il piacere proprio. Prendeva i regali perché le piaceva essere elegante, noi soldi non ne avevamo. Aveva un vestito nero, la bicicletta, aveva le scarpe col tacchetto la tirolese. Aveva anche un bel cappello da uomo, le piaceva così, come andava in bicicletta, e sempre le calze. E furono proprio le calze la sua disgrazia, pensa un po'. Una volta, sai, che una volta a una tavolata dove era l'unica donna, lei disse col sigaro in bocca: quando è finita questa guerra io mi sposo. Si misero a ridere quegli altri, tutti quanti, e lei pam, sbatté il pugno sul tavolo e disse: non avete capito che questa guerra il mondo l'ha cambiato? Le arrivò un pezzo di granata mentre andava in bicicletta qui. E sai dove andava? Andava a curare quelli che stavano male. Lei aveva voluto tutte le lenzuola della casa, sai, non c'era rimasto più niente, solo quelle nel letto. Diceva: guarda che servono. E poi non mi diceva più niente, perché capiva che forse mi dispiacevo di quello che faceva. La granata portò un pezzetto di calza giù vicino all'osso e le venne l'infezione. Il dottore disse: se non era per la calza... Le tagliarono la gamba perché andò in cancrena, sai? L'andarono a trovare tutti gli ufficiali. Lei si era messa il rossetto, si era voluta far pettinare. Si fermarono poco, un po' così, non sapevano cosa dire. Andarono via. E lei aveva già capito tutto. Quando rimase da sola, saltellando come un passero, andò alla finestra, l'aprì. Oh, speriamo che ci fosse la luna. E vide tutti i posti nei quali aveva amato, un paesaggio pieno di vite e di ricordi, anche se era così giovane. Si tirò su e pam, giù dalla finestra. Morì d'un colpo, dicono. La morte fu un fiore rosso qui all'angolo della bocca. La Mariella. Che è stato meglio così, forse, perché piuttosto che finire poi in un bordello con tutte quelle categorie, bastava niente, non so, che uno si mettesse in testa di partire da un paese di campagna per diventare magari una sartina, perché c'era il mito della Rosa Genoni che era andata fino a Parigi a fare la stilista. Poi in un inverno un po' più freddo uno ti apriva la porta, rimanevi incinta e poi ciao, cominciava la vita. Ed eravamo noi, proprio noi, quei ragazzi che stavano coi pantaloni sbraccati davanti a una porta, con una che ci guardava di sottecchi, seduta davanti a gambe larghe, e sbirciavi dalla fessura, c'era un letto rosso, sporco, uno col fiato sul collo dell'altro. Eravamo noi, quei ragazzi romantici dal passo ardito, dal cuore innamorato. Mi ricordo uno, un napoletano, che uscì e vedendo il mio sguardo disse: «E buon assai!» Ma lei gli rimase soffocata qui nel collo. «Per piacere, stai attento con quelle giberne, con le scarpe. Mi rovini la mia pelle bianca. È rara, sai, la mia pelle». Alle donne bastava poco per essere allontanate come perdute, pacifiste, sovversive, disfattiste. Io mi chiamo Alba, ho un albergo a Cortina, sono sempre stata brava, ho una famiglia d'oro, so cucinare, so tenere i conti, so tenere pulito, so mettere i fiori. Quelli sono arrivati i soldati, si sono mangiati tutto. Quando gli ho chiesto di pagare, mi hanno preso in giro, e allora ho giocato anch'io. Volevo far l'austriacante tutta vestita di nero con un mazzo di fiori gialli in giro per il paese, e mi hanno mandato a terra, mo da sola. E chi lo manda avanti l'albergo là a Cortina, che ero io a fare tutto? Io mi chiamo Rosa e sono lavandaia. Stavo facendo il mio lavoro al fiume quando sono arrivati, mi hanno spinto verso gli alberi dove fin da piccola mi hanno detto che non si deve mai andare, e allora li ho presi a calci e pugni. Ora sono a Campobasso, senza la mia mamma e il mio babbo, senza il mio lavoro, non so far niente. Aiuto. Noi invece siamo due maestre, Rosa e Virginia Vincini. Per tutta la vita abbiamo insegnato la fiducia nella libertà, nella verità, nell'amore, nella pace. Ma non siamo socialiste, non siamo disfattiste, non siamo pacifiste, giuro. Abbiamo due genitori anziani. Senza di noi, quelli muoiono, e anche noi senza insegnare moriamo. Per favore fateci tornare. Io invece un altro tipo di coraggio. Io e la Maria portavamo con le gerle sui montagna da mangiare a quei soldati che se li erano dimenticati tutti. Non erano disertori, ma dovevano mangiare, e lo Stato non ci pensava. Ci sembrava di far del bene ai nostri mariti che chissà dov'erano. Io me la son cavata. Ma la Maria aveva quattro figli. Uno piccolo piccolo appena nato, lasciava i tre a casa dicendo al più grande bada agli altri, e si incamminava su con una forza, portava dei pesi. È stata così brava. Quando le è arrivato un colpo qui al fianco, si è seduta, ha preso il piccolo che teneva in braccio, l'ho appoggiato delicatamente a terra, che così l'abbiamo trovato vivo e sano, e poi è morta. Che vita, che coraggio, niente rimorsi, niente rimpianti. Lo sai che cosa vuol dire essere profughi? Vuol dire prendi quello che riesci a prendere, le bestie che a volte valgono di più delle persone per i contadini. Prendi quello che vuoi e via via, lascia casa tua dove sei sempre stato, dove è stata tutta la tua famiglia da generazioni e generazioni. I vecchi no, non se ne volevano andare, dicevano: noi siamo qui, preferiamo prendere una bomba. Bastava un muretto e ci attaccavano un'immagine, ci tenevano un tappetino e dicevano: questa è casa mia, non c'era più niente. Profughi, dicevano quando ci hanno visto, siete normali, pensavamo che aveste la coda, la bocca di traverso. Non sapevano che cosa voleva dire la parola. A me mi hanno insegnato a scrivere quando sono stata profugo, una maestra tanto buona, ma mio babbo non mi ha messo sul camion degli sfollati, dei bambini, li mettevano in salvo, ha voluto riportarci là, nelle valli del Natisone, a casa nostra. Guarda che bello, non ci sono più le porte e le finestre, ma la casa è in piedi. Ci siamo fatti dare del latte, dell'acqua, della farina, e abbiamo cominciato cominciato nel paiolo a fare la polenta. Che buona, che fame, babbo, che bello tornare a casa. Ed ecco che vengono gli austriaci. Aiuto, alziamo le braccia. Ma con la baionetta loro vogliono soltanto mangiare la polenta, la infilano, hanno fame. Ed ecco che arrivano i nostri e cominciano a sparare sugli austriaci e gli austriaci sui nostri. E la polenta è tutta sangue. E se ne vanno via con la polenta insanguinata, sparandosi gli uni gli altri. Ci lasciano soltanto quelli feriti a morte e li dobbiamo medicare senza avere niente. Le nostre scarpe sono incrostate di fango e sangue. Non restano prigionieri, solo due forse. Prigionieri, prigionieri, prigionieri sembra una bella cosa. Hai salvato la vita, hai salvato via. Ah, ma dura poco, poi comincia un tempo che è molle come il cotone e ti soffoca un tempo grigio dove esiste soltanto la noia e la fame. Non puoi neanche più scrivere perché la carta te la sei mangiata. Mangi delle carotine tagliate sottili, le cipolle marce, sei disposto a leccare i piedi a chiunque ti dia da mangiare. Ho perso ogni dignità, esiste ancora la mia città. Esiste ancora il corso la domenica. Almeno quando eravamo in trincea ci mangiavamo degli uccellini grigi e tondi come mele. Li mettevamo dopo essere andati a caccia sullo spiedo. Che buoni che erano. Poi un giorno abbiamo visto quegli uccellini che saltellavano sui cadaveri dei nostri compagni nella terra di nessuno. E mangiavano i vermi che uscivano dai cadaveri e non li abbiamo più voluti. Te sai che cosa sia la fortuna? Pare che la fortuna sia avere un mulino in tempo di guerra, una casa in campagna dove non passa nessuno. Per un po', che qualche gallina è rimasta viva, che nella stalla c'è la vacca e la cavalla, che dagli alberi qualcosa si ricava sempre e dalla terra, buona la nostra terra. Eravamo Biagio, mio marito, io, quattro figli e uno nella pancia. Ci guardavamo in faccia senza il coraggio di dire «Mo Dio, grazie!» il vecchio non era andato in guerra, ma era morto da poco, eravamo rimasti solo noi e i figli, che i figli sono sempre una benedizione. Hanno voltato di lì, in cerca di spie, gli austriaci. Erano fissati che ci fossero le spie e volevano darsi una ragione del fatto che gli andava male. Gli abbiamo dato da mangiare quel che avevamo e ha mangiato e avevano fame. Ma negli occhi ci avevano una ferocia, come se fossero invidiosi che noi stavamo bene. Han detto «Stalla! Stalla, bestie!» E ho detto «Cosa vorranno, mangiarsi anche le bestie?» Li abbiamo accompagnati lì. «Che cretino, mi sono scordato che lì c'è il telefono!» «Spie, spie, spie!» «Ma no, ma certo che è un telefono militare», dice Biagio. «Sono Biagio, ascoltami. Ci serve per sapere quando aprono le chiuse, per poter macinare, no? Ma perché non ha mai voluto imparare la loro lingua, porca miseria? Perché è la lingua dell'invasore!» E mi prendono da un braccio dall'altro. Saluto lei, la Maria, e vado. Mi portano giù dietro l'angolo, lontano dall'aia, ho già capito. E in quel momento mi viene in mente all'improvviso il giorno che mi sono sposato una volta, che ho rubato dall'albero. E penso, ma Dio, che giornata bella che è. Mi dimentico quasi di pregare. Non ho nessuna dignità, io voglio salvare la vita, la voglio salvare. Mi metto in ginocchio e in quel momento mi sembra di vedere la Maria che corre verso di me. Ma che strano, ha la bocca aperta, grida, ma non sento niente. Pum. E l'ha ammazzato. Rolando, il più grande, con la sua giacca rattoppata, è scappato via e si è nascosto, per fortuna. Io sono caduta grossa com'ero. Il bambino è nato, ma è campato solo 3 anni, è nato strano. Domandava, è il babbo? Poi un giorno ha chinato il capo. Non abbiamo capito perché. Forse erano troppe domande. E se n'è andato. Abbiamo fatto un ricevimento per i soldati, gli abbiamo offerto del vermouth. Ce n'era uno con le dita bluastre che si vedeva che stava morendo. Secondo me stiamo perdendo il cervello, abbiamo perso la ragione. Dicono che i nostri valorosi ce la faranno, anche se Cadorna ha fatto quel dispaccio che hanno cercato di tenerlo nascosto, ma io l'ho letto, li ha chiamati disertori, vigliacchi, ha detto che avevano fatto sciopero, ma che quelli avevano soltanto paura, erano stufi della guerra, come noi, siamo stufi noi, che siamo rimasti a casa. Mi ha detto una mia amica che suo fratello si è fatto ardito. Non mi è mai piaciuto lui, non mi è mai piaciuto il modo come scatta sull'attenti con le mani sulle cuciture dei pantaloni. Mi dice: sai che cosa vuol dire ardito? Adesso che non hanno più voglia di combattere, ne mettono uno ogni 8 soldati e quello urla: avanti, avanti, metti in fuori, schizzatevi l'uniforme di sangue, che bello, voglio tutta la faccia piena di sangue. Si dice che urlino come ossessi e che quando vanno al bar paghino sbattendo le mine sul bancone. A me pare, caro diario, che abbiamo perso la ragione. Che cos'hai tu? Che cos'hai tu da guardare? Che cos'hai da guardare? Perché tremo? Hai da guardare perché tremo? Shell shock, sono stato troppo sotto i bombardamenti. E ringrazia che io riesco almeno a parlare. Ci sono quelli che non riescono più a parlare, non riescono a più a muoversi, riescono soltanto a tremare. C'è un capitano che è rimasto tutta una notte tra i cadaveri dei suoi soldati morti, li ha baciati a uno, li ha svestiti e li ha leccati per vedere se potevano tornare in vita. Ci credo che è impazzito. Io invece non ero matto, io ero molto intelligente. Mi hanno preso tutta la mia roba e mi hanno messo in manicomio. Non riuscivo a parlare, soltanto quello. E la mano destra continuava a tremare. Allora è venuto il dottore, mi ha dato qualche scarica elettrica, mi ha detto: senti un po', non è che farei finta perché hai paura, perché tu sei un vigliacco, eh? Abbiamo trovato un nuovo sistema, sai, per far parlare quelli che sembrano mutini, sai? E mi aspetto una sigaretta sulla lingua. Ma la mano continuava a tremare e lui mi diceva: vedi che adesso la voce gridando l'hai cacciata. Perché la mano continua a tremare? Perché, dottore, se non trema, io prendo la pistola e le sparo e le spacco quel brutta muso! Questa è la follia della guerra. Nessuna infermiera, nessuna Croce Rossa li guarirà mai. Carissima Teresa, io vorrei che tu fossi calma e che tu capissi che io dovrò soccombere per forza. Quello che ho fatto io non riesco a dimenticarlo. Vogliono da me che cosa? La vita, e va bene, la vita non è niente, l'ho rischiata mille volte. Io quello che voglio adesso è volare in mezzo a un bosco, voglio stare in mezzo alla natura, non voglio più vedere umani, non voglio più vedere lo sguardo di chi sto per uccidere, io assassino, che mi guarda con disprezzo e terrore. Se tu sapessi, il sangue mi è arrivato in faccia dritto e ho sparato. Io voglio radunare tutti coloro che sono eroi valorosi. Li voglio radunare. Quando sarò impazzito davvero, correrò in mezzo un campo e io li chiamo e dichiarerò: pazza la nostra patria, pazzo tutto il mondo, pazzi tutti quelli che in questo errore non sono ancora impazziti. Capace che ti trovavi davanti un giudice allampanato, arrabbiato, una specie di gufo cattivo, che ti dava 8 anni perché avevi scritto a casa che a far la guerra si stava a male. No, non volevo scappare. Mia mamma è malata e il grano andava in malora. Ho pensato che dovevo andarlo a raccogliere. Fucilato al petto per diserzione. Ustione, piede nero, ferita, cancrena procurato da se stesso. 7 anni per autolesionismo. Pace, pace, conferenza di Zimmer, va fino al macello della guerra. 15 anni, sobillazione sovversiva. Come faccio io a tenere su il morale dei miei soldati quando vedo che i generali si sbagliano? Come faccio io quando vedo che la patria li manda al macello e sono stanchi di combattere, hanno fame, hanno paura? Come faccio a punirli? 2 anni per omissione di punizione. Sai che cosa devi fare? Sai che cosa devi fare tu con questi disertori, sbandati, vigliacchi, perduti? Vai in giro con una camionetta, no? Poi, quando li trovi, fai scendere il plotone di esecuzione senza processo. Fa! Zazza! Li ammazzi, quei cani! Firmato Andrea Graziani. Ed è tutto vero. Per fortuna, noi avevamo un ufficiale tanto buono che ci diceva di non sparare agli ostrici quando uscivano fuori per far la cacca dalla trincea, e anche noi, che bisogna avere un po' di rispetto, no? E lui ci faceva scambiare le gallette e le sigarette, e a Natale abbiamo tirato su un cartello scritto in 2 lingue: viva la pace e auguri. Anche qui 15 anni di reclusione, connivenza col nemico. E a Milano si va alla Scala come se niente fosse. Dov'è la morte? Dov'è la dea cattiva? Dove? Caro diario, mi ha raccontato Alessandra che tra di loro le croci rossine si scrivono. Ascolta, diario, che cosa scrive questa Elfriede? Non abbiamo più niente da dar da mangiare ai bambini. E allora facciamo bollire del riso nel grasso e poi ci infiliamo un pezzo di legno, così sembra prosciutto. Arrivano da noi in braccio alle madri che piangono, spesso sono mogli di soldati, sono pelle e ossa, tutti rinsecchiti. Ce n'è uno che sembra una piccola, piccola mummia. Il dottore gli dà una soluzione salina, ma non credo che vivrà a lungo. Mi guarda come se sapesse tutto, con degli occhi grandi, come se negli occhi ci fosse un rimprovero, come se gli dispiacesse di dire la verità. Sembra un vecchio saggio, e da solo 6 mesi. Ti scrivo di nuovo, Alessandra, per dirti che senza un rantolo, senza un sospiro, quel bimbo è morto. L'abbiamo messo nel corridoio più fresco, in una culla piena di fiori, con le garze. Ogni tanto mi faccio guardarlo. e sembra un nano, vecchissimo, di 100 anni. Pare che sia finita finalmente la guerra. Dopo tanti sussulti, mi sento disorientata, mi sento confusa, mi sembra tutto sbandato, disperso, gli statisti. Parlano tra loro come cani e gatti, riusciranno mai a combinare qualcosa? Io non lo so. I bambini, sia i nostri che gli altri, molti vanno a scuola scalzi. Ecco che cosa ci abbiamo guadagnato. Ed è arrivata anche la spagnola, la gente che non è morta per questa guerra grande. Muore d'influenza, anche quelli forti, il dottore, il farmacista, la Gianna, te la ricordi? E ci sono gli scioperi, gli scioperi, gli scioperi. Io voglio sapere tutto e perché alcuni invece scioperano e nemmeno sanno. Oggi, ad esempio, è perché hanno ammazzato Rosa Luxemburg. Nicola non lo sa, ma io ho letto tanto, tanto di lei e tanto ho ricopiato nel mio diario. Questo diario che ora chiudo, che ho cominciato perché la morte mi è passata tanto vicino. Chissà se qualcuno lo leggerà un giorno. Ascolta, diario, che cosa scrive la mia Rosa. È il mio terzo Natale in Gattabuia. Senti, ma sono calma e serena come sempre. Rimango sveglia al buio e sto qui sdraiata come in un'ebbrezza gioiosa. Sono in una cella scura sopra un materasso duro come la pietra e intorno a me c'è un silenzio di tomba. Mi sembra di essere in un sepolcro e attraverso la finestra si disegna sul soffitto il disegno della lanterna all'ingresso del carcere. Si sente lo sfragliare di un treno lontano e la sabbia che stride sotto gli stivaloni della guardia che cammina avanti e indietro e stride in modo così disperato che in quel suono c'è tutta la desolazione e lo sconforto dell'esistenza. Me ne sto qui distesa sola e intanto il mio cuore pulsa di una gioia interiore incomprensibile, sconosciuta, come se andassi camminando sotto un sole radioso in un prato fiorito. Nel buio sorrido alla vita come se fossi a conoscenza di un segreto incanto che mi permette di sbugiardare tutto quello che è triste e malvagio, di cambiarlo in splendore e felicità. E mi domando e cerco quale sia il motivo di questa gioia. Non ne trovo nessuno e sorrido. Il segreto è nella vita stessa, nel canto della vita che passa anche se lo sai ascoltare, in quel rumore della ghiaia e della sabbia sotto gli stivali. Qui, sai, amica, ci sono dei bufali che sono un trofeo di guerra e li costringono a portare tutto il giorno carichi inimmaginabili e loro si sfiancano. Un soldato li frustava a sangue e allora la guardiana del carcere ha detto basta, un po' di pietà, pietà per le bestie che per gli uomini non c'è, e ha continuato e hanno ricominciato a camminare. Ma nel volto scuro quei bufali avevano uno sguardo fondo e nero come di un bambino che ha tanto pianto. È stato punito e non sa perché e non può sottrarsi a quella sofferenza. Allora io li ho guardati fisso e ho pianto. E il mio pianto era il loro pianto. Ho pianto. Mi hanno detto che la dinastia degli Hohenzoller non governa più la nostra nazione. Mi hanno detto che siamo stati sconfitti e dobbiamo avere fiducia nel nemico. Soltanto un pazzo o un criminale potrebbe avere fiducia in loro. Ho pianto tutta la notte, ho pianto e il mio cervello bruciava, e ho giurato in quella notte di riscattare l'onore del mio popolo, del mio paese, di diventare un uomo politico. Firmato Adolf Hitler, 1919. Con l'allegria, l'accoglienza e l'ospitalità caratteristiche del nostro popolo, diamo il benvenuto all'amico e all'alleato. Noi vogliamo difendere sempre, in quanto libertari, cioè libertari vuol dire che si difende la libertà di tutti, anche dei nostri avversari. Vogliamo affermare che ci batteremo per conservare la libertà di pensiero, parole, azione di tutto il popolo, e non solo quello italiano, è un diritto inalienabile dell'umanità. Ecco, firmato Benito Mussolini, sempre 1919. Non ci volevo credere. Nella nostra bella terra, tra il fiume Natisone e la strada, ci hanno fatto ritornare, ma ci hanno chiesto di riscattare gli stabilimenti che avevano costruito e bontà loro ci lasciavano. Mio fratello ha dovuto smettere di studiare, gli piaceva tanto, anche se faceva 15 chilometri avanti e indietro in bicicletta ogni giorno. A me mi hanno detto: Ninì, che cosa fai te? Vai a lavorare in fabbrica? Perché la terra è tutta rivoltata e dolorante. Io ho detto no, io lavoro qui, a casa mia, nella mia terra, perché voglio che ritorni ricca e fiduciosa. Firmato Emma Beltrame, contadina delle valli del Natisone. Ah, finalmente sono a Riccione. Ah, che bello il mare. Se non fosse stato per questo sciopero, in questa Romagna rossa non fanno altro che scioperare per le 8 ore e gli straordinari. Sarebbe venuto Nicola per farmi una visitina. Ma non può venire così. Non sappiamo neanche chi ci farà la cena. Va a finire che dovremo cucinare noi, va a finire che dovremo rifarci noi le stanze. Ma non importa, sono così contenta di essere al mare, che sia finito questo grande macello. Firmato Eurilla Bollani, moglie di Nicola, madre, signora in Monza, in vacanza al mare. A Riccione sarà finito questo grande macello. Morti. Seconda guerra mondiale. Non caduti, morti. Albania, ventottomila. Australia, 40.119. Belgio, 88.000. Birmania, 60.000. Brasile, 493. Bulgaria, 22.000. Germania, 7.418.000. Giappone, 2.630.000 Grecia, 300.000 India, 1.530.000